20 e 19 minuti, siamo tornati in diretta, collegamento con il Brasile, direste voi. No, non siamo in Brasile. Dove andiamo questa sera? Ma andiamo nel Sudafrica, andiamo con Flavia Lagia di nonsoloturisti.it, che immaginate voi, ha fatto un viaggio in barca dal Brasile per arrivare appunto in Sudafrica e ce l'ha fatto, vero Flavio? Sì, magari mi sarebbe piaciuto, invece questa volta mi hanno messo fretta. Io dopo qualche tempo, insomma, dell'ultimo volo mi dimenticavo quanto odiassi volare, mi sono convinto a organizzare questo spostamento, questo viaggio in aereo da un punto all'altro del pianeta. Perciò, dopo la mia bellissima esperienza in Brasile, dopo bellissimi giorni passati tra l'altro a Massaio nel nord-est, a Ouro Preto, a Minas Gerais, sono arrivato stavolta sì in pullman fino a Sao Paulo, e poi da Sao Paulo purtroppo mi è toccato prendere l'aereo, e in qualche modo anche abbastanza così divergente sono arrivato fino a Città del Capo in Sudafrica. Ma ricordiamo pure perché sei arrivato lì a Città del Capo, qual è l'intento di Flavio Lagia e di nonsoloturisti.it? A Città del Capo con nonsoloturisti.it, grazie allo straordinario impegno e generoso invito di Giuliano Radici, prenderò parte al progetto di 7000 miglia lontano, di cui potete leggere qualunque dettaglio su 7000miglialontano.com, che è questa meravigliosa esperienza intorno al mondo. I ragazzi sono partiti l'anno scorso da Milano, hanno attraversato tutta quanta l'Europa dell'Est, l'Asia, sono arrivati fino nelle Americhe, passandole dal nord al sud, e adesso le macchine, ogni tratta c'ha un team di 6 persone con 2 veicoli che viaggiano. Adesso le macchine sono in trasferta via mare dall'Argentina e arriveranno, mi hanno detto proprio stamattina, arriveranno a Città del Capo domani. Sbrigheremo le pratiche doganali sperando che vada tutto liscio. Insomma, in questi casi c'è sempre un po' paura che la burocrazia si metta di mezzo. Comunque, nel giro di una settimana più o meno dovremo riuscire a ripartire per questa grandissima esperienza. Ogni tappa è legata a un progetto umanitario di grande valore per i luoghi che vengono attraversati. Chi volesse contribuire con una piccola donazione può andare sul sito di 7000miglielontano.com e scegliere come dedicare la propria generosità. Insomma, ci divertiremo, faremo un sacco di... Chi molto meglio di me sa usare la macchina fotografica, per fortuna, farà un sacco di bellissime foto, ci sarà il videomaker per il video, e racconteremo la nostra esperienza su tanti canali e anche su nonsoloturisti.it. Ma Flavio, non potevi viaggiare, no, scusa la domanda un po', ma non potevi pure tu raggiungere le macchine che dall'Argentina poi sarebbero arrivate fin in Sudafrica, a Città del Capo? Assolutamente, potevo, avrei voluto, poi sai come all'inizio quando si preparano queste cose. Io per la prima volta sono un po' emozionato, perché sarà la prima volta che viaggio in maniera così consistente con un gruppo di altre persone. Io sono abituato a viaggiare da solo, a improvvisare, a perdermi per i meandri di ogni città, di ogni continente. Questa volta devo giustamente rispettare un po' alcune date, alcune scadenze, quindi mi ero organizzato il viaggio per tempo. Viaggio che però, ti confesso, non è stato così terribile, a parte il volo, che io detesto cordialmente in ogni occasione. In particolare da Ouro Preto, dove ci siamo sentiti l'ultima volta, sono arrivato nella vitale e vivacissima San Paolo, dove sono arrivato venerdì, e sabato ho potuto approfittare del primo giorno di carnevale di San Paolo, quindi mi sono buttato in questo marasma di gente, di persone, accompagnato dal mio amico Riccardo, un ragazzo simpaticissimo, un ragazzo brasiliano che dopo aver fatto il giro del mondo, e l'avevo incontrato infatti anche in Africa, proprio anche a lui, è tornato in Brasile per fondare una interessantissima startup che si chiama worldpackers.com, che mette in contatto viaggiatori di tutto il mondo con ostelli in cerca di volontari affinché si possa viaggiare, esplorare, scambiarsi idee, esperienze attraverso le varie culture, offrendo il proprio servizio a questi ostelli, che poi in cambio offrono alloggio e vitto e alloggio. E con il mio amico Riccardo mi sono infilato in questo marasma di festa, di colore, di musica, di gente a Sao Paulo, per fondamentalmente ridurmi nel peggior stato possibile in modo che non dovessi preoccuparmi del viaggio. Sao Paulo ci siamo divertiti, il carnevale brasiliano è leggendario, non ha bisogno di presentazioni. Io l'ho sempre evitato, lo confesso, proprio per evitare questo marasma, ma quando mi ci sono ritrovato a Sao Paulo è stata veramente un'esperienza incredibile, l'ho apprezzata in pieno. si beve tanto, non c'è bisogno di nasconderlo, si balla tanto, si canta tanto, e c'è un clima di grande socialità, di grande festa, di grande fraternità tra tutti i popoli coinvolti, tra tutte le genti coinvolte. Immagino. Purtroppo, comunque, senza sorprese, ha piovuto, mi sono preso un sacco di piogge, mi sono completamente infangato perché eravamo su un declinio di terra ed erba, mi hanno buttato sotto la doccia prima di infilarmi sull'albergo e ho potuto prendere il mio volo per la prima tratta fino in Africa. È tutto veramente fantastico. Però Flavio, rimani ancora in nostra compagnia, perché adesso ci andiamo ad ascoltare un altro brano direttamente pescato dalla nostra stonata chart, che riguarda proprio uno dei super ospiti di questa sera del Festival della Canzone Italiana, che parte questa sera, e quindi ci andiamo ad ascoltare proprio Tiziano Ferro con Incanto. Tiziano Ferro con Incanto qui su Radio Stonata. L'ho già ripetuto prima, è il super ospite di questa sera. Non ci sarà solo lui, ci saranno anche gli Imagine Dragons, ma ritorniamo a nonsoloturisti.it. Flavio Lagia è al Sudafrica e a Città del Capo. E appunto, Flavio, prima di buttarci appunto su perché l'hai detto prima, sei lì a Città del Capo, dobbiamo ancora dire qualcosa sul Brasile, su quel bellissimo paese che ti ha ospitato per circa 20 giorni. Sì, il Brasile alla fine è stata, come al solito, come era facile prevedere, un'esperienza meravigliosa. Io lo dico abbastanza così, con un misto di senso di colpa e di sorpresa, non sono il primo appassionato, il primo fan del Sud America, non è mai stata tra le mie mete più ambite. Ci sono sempre ritrovato un po' per strade alterne, per andare a raggiungere persone, per motivi di lavoro, eppure ogni volta l'ospitalità e la cordialità dei sudamericani, nel mio caso dei brasiliani, mi ha sempre colpito molto. Ed è un peccato accettare il fatto che a tanta cordialità si associ spesso, anche giustamente, un senso di insicurezza e di pericolosità del continente sudamericano. Quindi inutile dire che bisogna sempre stare molto attenti, ma questo non deve mai scoraggiare i viaggiatori, i turisti ad aprirsi verso i incroci culturali, verso l'ospitalità dei brasiliani, che è sempre molto forte. Però questa volta non è soltanto il Brasile, a sorprendermi è stato anche il mio viaggio aereo, come dicevo, che non è stato poi così terribile, sebbene io sia assolutamente contrario agli aerei e a spostarsi in volo. Infatti il mio simpatico aeroplanino, che mi ha portato per tappe alterne fino alla Città del Capo, si era fermato ad Addis Abeba, Beppe, dove io ero già pronto a dormire come al solito sul mio zaino in mezzo ai corridoi dell'aeroporto. Invece stavolta la compagnia aerea mi ha graziato con una notte in albergo, e io, che venivo onestamente dal fango e dall'acqua del carnevale di Sao Paolo, ne ho approfittato adeguatamente per fare una doccia e per cambiare i disastrati vestiti che indossavo. Quindi mi è andata anche abbastanza bene. Da Addis Abeba siamo ripartiti il giorno dopo e sono arrivato ieri sera a Città del Capo. Mi sono già riassociato con i miei amici. Io arrivavo qui per la prima volta in Sudafrica 4 anni fa, ed è incredibile come le persone, i miei amici sudafricani, ma soprattutto i ragazzi di Città del Capo, mi hanno rinnovato senza pensarci due volte la loro ospitalità. Città del Capo è una città eccezionale, decisamente complicata e complessa. Non bisogna fermarsi le prime apparenze al lustro e all'effetto fatiscente dei grandi palazzi del centro. È una città che comunque conserva al suo interno, nel suo intreccio culturale, anche una forte sofferenza, una forte squilibrio anche sociale ed economico, che è eredità naturalmente dell'apartheid e del periodo colonialista, ma è comunque una città assolutamente unica nel suo genere. Città del Capo è sulla costa e si adagia all'ombra di Table Mountain, che è questo massiccio roccioso, questa montagna incredibile con la sommità piatta, quindi quando si arriva in cima c'è questa specie di altipiano pianeggiante da cui godere di una vista incredibile sulla costa, sulla baia, sull'intera città. È una città di grande fascino anche grazie alla sua innegabile, eccezionale vita notturna, e come dicevo appunto, i capitoniani, ragazzi del posto sono incredibilmente ospitali, simpatici, sempre con voglia di ridere, di fare musica. C'è un grande fermento culturale, artistico. Sono arrivato qua e mi sono subito trovato con uno dei miei compagni di viaggio, il fotografo Luciano Perbellini, che abita ormai qua, cioè il capo da qualche anno. Mi sono fatto accogliere da lui, quindi nella mia nuova residenza, nel mio nuovo alloggio qua in Sudafrica, insieme a lui. Tra una settimana, se tutto va bene, ripeto, speriamo nella burocrazia, con il team di 7000 miglia lontano partiremo per questa grande avventura. Dovremo guidare da Città del Capo fino a Malindi in Kenya, attraverseremo tra gli altri posti anche la Namibia, il Zimbabwe, il Malawi, la Tanzania. Io mi metterò al servizio di questo team straordinario, persone molto più competenti di me, si occuperanno di produrre immagini e video spettacolari, vi racconterò la nostra esperienza. Sarà un viaggio fantastico, Flavio, quindi non vedo l'ora che ci racconti proprio il viaggio e ci mandi pure qualche bella foto da pubblicare sia sul sito di nonsoloturisti.it che sia sulla nostra pagina Facebook. Flavio, grazie mille, ci sentiamo giovedì. Grazie a te, Beppe, ci sentiamo senz'altro giovedì, e grazie a tutti quanti e buona serata.